Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata a tutti, benvenuti a Magazine 24, puntata del sabato. Questa mattina voglio cominciare parlandovi di luoghi comuni, lo faccio perché sull'Espresso, in edicola questa settimana, la rubrica di Umberto Eco, che immagino conosciate, La bustina di Minerva, questo è il suo titolo, il titolo proprio della rubrica di Eco, si occupa di luoghi comuni con il loro rovesciamento. Infatti voi potete leggere sull'Espresso La bustina di Minerva, ovvero La Minerva della bustina. Il gioco di parole serve a Eco per spiegare un po' come può essere divertente ribaltare tutta una serie di luoghi comuni. Sono cose che si fanno a volte anche, come dire, tra di noi. Adesso c'è un volume, tra l'altro, di Stefano Bartezzaghi, che si intitola, ad esempio, Scusa l'anticipo, ma ho trovato tutti verdi, che è il classico ribaltamento del scusa il ritardo, ho trovato tutti rossi. E nella rubrica sull'Espresso di questa settimana Eco appunto fa diversi di questi rovesciamenti, presenta diversi di questi rovesciamenti, a cominciare, non so, da La fantasia supera la realtà, oppure Gli voglio un male dell'anima, Meglio 100 giorni da leone che uno da pecora, e Imparando si sbaglia, e altri ancora. Non ve ne do lettura integrale, ma avete capito da questo breve assaggio che si tratta di una cosa molto divertente, che però serve poi a Eco per introdurre un concetto non semplicissimo, cioè il fatto che noi utilizziamo questi luoghi comuni, che è così poi divertente rovesciare, per mantenere un contatto umano. Quindi c'è proprio una funzione del linguaggio, i linguisti la chiamano funzione fatica, serve a mantenere in contatto appunto noi esseri umani senza dirci niente di particolare. È il classico, come dire, colloquio da ascensore: ha visto che tempo fa molto freddo, fa molto caldo e così via. In realtà non ci siamo detti nulla, ma abbiamo fatto capire ai nostri interlocutori, ai nostri occasionali compagni di viaggio in ascensore, ad esempio, che abbiamo intenzione di mantenere un rapporto cordiale, corretto con loro. E dice Eco, quindi in realtà questi luoghi comuni sono un'arma a doppio taglio, perché ci servono sì a mantenere il contatto, ma anche a mantenere una distanza. In un certo senso ci salvano un po' dal vero rapporto con gli altri, sono un'ancora di salvezza per chi nell'epoca delle comunicazioni a tutti i costi, e parleremo di comunicazione nella prossima puntata domani di Magazine 24, in questa epoca di comunicazione a tutti i costi predilige in realtà il silenzio e la solitudine. Quindi una chiusura, diciamo, meno divertente rispetto all'attacco della rubrica, che invece, come avete potuto ascoltare, è molto spiritoso. E ad esempio ci sono dei luoghi comuni che si rovesciano da soli, cioè la realtà supera la fantasia, tanto per dirne uno di quelli proprio presi di mira da Eco. In Cina i lavoratori sono pagati poco. È vero, ma non più così poco, verrebbe da dire. Quindi un luogo comune di cui ci si sta piano piano abituando a disfarsi. Lo riferisce proprio lo stesso Espresso, sempre quello in edicola questa settimana. In Cina ora salgono i salari. Fa notizia perché si è sempre saputo che i salari appunto cinesi sono particolarmente bassi. Tra l'altro lo stesso argomento viene affrontato più o meno con lo stesso taglio anche da una testata straniera, cioè Nouvelle Observateur, che nel numero in edicola questa settimana parla proprio delle lotte sindacali in Cina. Il titolo di Nouvelle Observateur, decisamente più aggressivo: vento di rivolta nell'officina, nella fabbrica mondiale, intendendo con questo l'intera Cina, cioè queste mega fabbriche di cui probabilmente avete letto sui giornali. Sul Sole 24 Ore abbiamo raccontato a più riprese le vicende, ad esempio, di Foxconn, di questi mega stabilimenti con centinaia di migliaia di persone che ci lavorano dentro. Sono delle vere proprio città della produzione. Ecco, da lì parte un disagio, partono una serie di richieste sindacali che stanno trovando buona accoglienza, viene da dire, forse anche perché partono da livelli talmente bassi, visti con i nostri occhi, che non sembra difficile migliorare queste condizioni. Vi leggo qualche passaggio dal lavoro di Federica Bianchi sull'Espresso. Nel cuore industriale del paese, della Cina naturalmente, le buste paga sono diventate di colpo più pesanti, c'è un piano del governo per far crescere i consumi ed evitare tensioni sociali. Già dall'inizio del 2007, ricorda Federica Bianchi, i ricercatori dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali in un loro libro verde l'avevano previsto. Cosa avevano previsto? Che a cavallo tra il 2009 e il 2010 i salari degli operai cinesi sarebbero rapidamente cresciuti. E normale meccanismo della domanda e dell'offerta, viene da dire, perché di giovani e bravi ragazzi disposti a passare i giorni migliori della loro vita legati a un macchinario lontano magari migliaia di chilometri da casa, per poche centinaia di yuan al mese se ne sarebbero trovati sempre meno. E così è successo, o meglio sta succedendo, proprio a Zhongshan, nel cuore manifatturiero della Cina. Ci sono milioni di ragazzi, perché gli imprenditori difficilmente assumono gente che ha più di 35 anni, milioni di ragazzi della fabbrica del mondo hanno cominciato a chiedere e stanno ottenendo, tra la sorpresa dei governi di mezzo mondo e la consapevolezza invece del governo cinese. Cosa sta succedendo? Che la Cina si sta trasformando in un'economia avanzata, la crescita delle esportazioni quindi è destinata a cedere lentamente il passo ai consumi. E il tasso di crescita del prodotto interno lordo cinese passerà dal 9-10% che abbiamo visto in questi anni a un più normale 6-7%, questo dicono gli analisti. C'è poi un qualche passaggio con degli osservatori proprio dell'economia cinese, ad esempio Andy Xie, che è appunto uno specialista di economia cinese, dice partiamo da questo ragionamento: il termine scarsità di manodopera è un ossimoro, perché se di un prodotto c'è scarsità vuol dire più semplicemente che non è prezzato bene, quindi i salari dei colletti blu specializzati dovranno crescere. In Guangdong in questo momento il salario minimo sfiora ormai 1000 yuan mensili come a Pechino e Shanghai, ma lo spazio per gli aumenti è ancora ampio. Infatti, come riferisce lo stesso Andy Xie a Federica Bianchi, il monte salari rappresenta soltanto il 15% del prodotto interno lordo cinese rispetto a una media europea che supera il 40%. Queste alcune delle indicazioni che trovate sull'Espresso. Vi segnalo invece il taglio che viene dato da Nouvel Observateur, che la vede proprio dal lato di chi conduce queste lotte sindacali, lotte non semplici perché ovviamente la rappresentanza e i meccanismi di rappresentanza sindacale sono in Cina tutti da costruire. Si comincia infatti con questo racconto in presa diretta del corrispondente di Nouvel Observateur, che dice: è lunedì 17 maggio a Foshan, vicino Canton, nella modernissima fabbrica della Honda. La squadra del mattino è già al suo posto di lavoro alle 7:50, seguendo un piano prestabilito e preparato in gran segreto. Un operaio di 23 anni pigia sul bottone d'emergenza che ferma la catena di montaggio e grida: facciamo sciopero. Nello stesso momento un suo compatriota, Xiao Lang, 20 anni, che lavora nella fabbrica vicina, fa la stessa cosa, e così via in una catena che blocca via via tutto l'impianto. 1900 operai di Foshan in questo impianto della Honda non domandavano poi niente di più, riferiscono all'osservatore, che di raddoppiare il loro salario, cioè arrivare a 2000 yuan al mese. E qui molto utile la precisazione che viene fatta dal Nouvel Observateur, che dice 2000 yuan al mese sono 238 euro. Ora è vero che i beni, ovviamente l'acquisto dei beni in Cina pesa molto meno che da noi, però effettivamente non sembrano delle cifre proprio da ricchi. Infatti uno dei sindacalisti che viene sentito da Nouvel Observateur dice che in questo momento c'è anche con un aumento di 50 yuan, che poi sono 6 euro, visti i prezzi delle case, l'inflazione, in questo modo insomma è impossibile avere un futuro, acquistare un appartamento, maritarsi e crescere, avere dei figli e poterli crescere. Quindi c'è una pressione molto forte per dare ai lavoratori cinesi, specialmente in queste grandi fabbriche, delle condizioni, dei salari migliori. Correda il lavoro di Ursula Gautier, che è la corrispondente appunto di Nouvel Observateur, una scala da 1 a 5 sulla competitività. nelle varie regioni, diciamo, dove il lavoro costa meno in tutto il mondo, e si vede che le regioni cinesi più note per l'attività produttiva stanno su valori superiori ai 3, quindi ripeto, da una scala 1 a 5 sono non troppo alti, però in Bangladesh ad esempio c'è un valore, viene stimato un valore di 2,53, in Cambogia del 2,57, quindi la Cina già si è posizionata su una parte alta nei posti dove, naturalmente, confrontata con i paesi dove il lavoro costa meno. E allora, visto che parliamo di economia, vi comincio a segnalare una cosa che poi proseguiamo dopo esserci fermati per le informazioni sul traffico. Su Focus di questo mese c'è una spiegazione molto bella, molto comprensibile, molto chiara della crisi economica di tutti gli effetti, e tra l'altro due pagine che provano a porsi questa domanda: se tornasse la lira. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Avevo fatto una promessa poco fa e eccomi qui a mantenerla. Vi dicevo, su Focus di questo mese un lungo dossier che spiega in modo molto semplice, molto diretto, i motivi della crisi economica. Quindi una cosa di cui si sente parlare spesso, l'approccio di Focus è estremamente divulgativo. Tra l'altro una bella doppia pagina che risponde a questa domanda ricorrente: e se tornasse la lira? Cioè, se fossimo magari costretti a lasciare l'euro perché è incapace di tenere il passo dei paesi virtuosi, che succederebbe? C'è una risposta, diciamo, in sei tappe. La prima tappa dice, appunto, cerca di spiegare il se. Effettivamente non è un'ipotesi del tutto remota che se l'Europa non riuscisse a darsi una guida economica unitaria, se i paesi con molti debiti, tra cui purtroppo il nostro, non fossero in grado di risanare i bilanci, allora i paesi virtuosi potrebbero decidere, per non essere danneggiati da quelli deboli, di lasciarci fuori dall'euro, quindi potremmo tornare alla lira o a una specie di euro di serie B, e probabilmente ripartiremmo da un cambio iniziale che potrebbe essere anche quello del 2002, ve lo ricorderete, 1936,27 lire per un euro. Però cosa succederebbe? Che molti non cambierebbero i loro euro per timore di una svalutazione, li ritirerebbero più probabilmente dalle banche, oppure li investirebbero in euro, naturalmente puntando sui paesi virtuosi e non certo sul paese che si è, come dire, che è stato estromesso. Al punto 2, quindi, cosa succederebbe di conseguenza? Una diminuzione di affidabilità. La lira sarebbe meno affidabile dell'euro, sarebbe esposta a continue svalutazioni. Il primo effetto di questa perdita di credibilità sarebbe quale? Una maggiore difficoltà per lo Stato di trovare fondi, di trovare i soldi necessari per mantenere le sue attività. E quindi cosa dovrebbe fare lo Stato? Beh, offrire tassi di interesse più alti per i suoi prodotti come BOT, CCT e altri titoli che vengono utilizzati per finanziarsi. E naturalmente bisogna, per trovare dei sottoscrittori, bisogna aumentare il valore promesso, e questo costerebbe altro denaro, quindi alimenterebbe, il punto 3, la spirale del debito, perché per trovare tutti questi soldi bisogna pagare interessi più alti, bisogna contrarre nuovi debiti, tagliare le spese, imporre sacrifici. Debiti sempre più alti, un debito complessivo sempre più alto porterebbe a mutui per le case ma anche per le imprese sempre più cari, e quindi sarebbe anche più oneroso prendere del denaro a prestito per acquistare una casa, per avviare un'attività. Di conseguenza, diventando più oneroso prendere denaro a prestito, avremmo bisogno, chi può farlo, chi ad esempio fa un'attività in proprio, di aumentare il prezzo, di aumentare gli importi della sua attività, quindi i prezzi comincerebbero a salire. Qui non vengono dati dei tempi, ma è ragionevole pensare che questa spirale di cambiamenti potrebbe anche essere abbastanza rapida, e da qui poi si arriverebbe ad altre difficoltà. Ad esempio, la lira debole renderebbe più difficile pagare la benzina, il costo dell'energia prodotta con il petrolio, quindi farebbe crescere le bollette, le spese di trasferimento, le spese quindi di tutte le merci trasportate, e quindi probabilmente porterebbe con sé una riduzione ulteriore dei consumi. Naturalmente sappiamo, lo stiamo sperimentando adesso, che se i consumi si riducono poi ci sono degli effetti sull'occupazione molto pesanti, e qui si ferma la ricostruzione di Focus, che però devo dire in sei passaggi credo risponda molto bene e in modo definitivo a questa ipotesi di ritorno alla lira, che qualche volta si sente anche vagheggiare come un'ipotesi conveniente. Davvero non sembra così, lo trovate su Focus di questo mese. Ci sono poi dei lavori che invece non hanno spesso riconoscimento, anzi non ce l'hanno del tutto, viene da dire. Ad esempio su Vita di questa settimana si ricorda un lavoro che viene svolto molto nel periodo estivo, e si tratta dei nonni sitter, cioè con la chiusura di scuole e asili i nonni devono rimboccarsi le maniche, segnala appunto Vita. Gli anziani sono impegnati a tempo pieno nel mese di luglio per seguire i nipoti. Hanno provato a calcolare quanti sono questi nonni che vengono destinati alla cura dei bambini, alla cura dei nipoti. Sarebbero intorno ai 3 milioni. Ci sarebbe, per la precisione, uno zoccolo duro di 2 milioni 164 mila nonni che guardano i piccoli di casa per tutto l'anno, e a questi si aggiungono 800 mila circa nuove leve che entrano in campo soltanto nei mesi estivi. A fare il conto completo, segnala sempre Vita, bisogna sommare a questi già più di 3 milioni altri 2 milioni e mezzo che vengono impegnati part time, cioè non per tutta la giornata. A fare tutto questo lavoro di censimento è stato un pediatra, il pediatra milanese Italo Farnettani, che poi è anche autore, segnala sempre Vita, di un decalogo, il decalogo del nonno autorevole, effettivamente per farsi, come dire, ubbidire, per farsi dar retta dai nipoti, un po' di autorevolezza è benvenuta. Siamo sempre in area di lavoro. Innanzitutto un consiglio per la lettura, perché in queste settimane stiamo proponendo insieme con il Sole 24 Ore un libro che nasce proprio da un programma qui di Radio 24. Si tratta di ZOT, ci sono tre Z iniziali, ZOT Fulminati in Azienda, un programma che, se avete ascoltato, se ascoltate Radio 24, senz'altro vi ha divertito. Lo trovate adesso su Libro, è stato raccolto ed è in vendita questo libro. Libro ZOT Fulminati in Azienda con il Sole 24 Ore, 9,90 euro, una lettura estiva per chi l'ha sentito in programma, per chi lo conosce, un modo per ritrovare i suoi beniamini, per chi invece non lo ha sentito, un modo per recuperare. Ma restiamo appunto in ambito di lavoro, vi dicevo, perché da 7 nella rubrica di Pietro Calabrese c'è un passaggio che davvero fa riflettere sullo stato del lavoro in questo momento e anche sullo stato delle persone anziane, visto che parlavamo di nonni sitter. Dice, appunto scrive meglio Pietro Calabrese, ricordate, un medico vende reversibilità per 100.000 euro. Che cos'è successo? Allora, un paio di settimane fa, spiega lo stesso Calabrese, ho scritto un pezzo intitolato Vendo pensione di anzianità. Un chirurgo toscano tra i 67 e i 70 anni, vedovo, senza figli, in buona salute, con ancora tanta voglia di vivere, proponeva un singolare contratto a una donna disposta ad accettarlo. Un matrimonio solo di facciata, ognuno avrebbe continuato la propria vita abitando in posti diversi, lei gli avrebbe versato la somma di 100.000 euro e alla morte del chirurgo avrebbe ereditato abitazione e pensione. Insomma, una formula di mantenimento che probabilmente senza tutta questa formalità è anche non così lontana dalle esperienze della vita, e che però effettivamente fa effetto vedere, leggere così, come dire, strutturata. E cos'è successo a Calabrese? Che gli sono arrivate un sacco di mail di donne che erano vellicate, scrive lui, dall'offerta, chiedevano notizie, ragguagli, chiarimenti, particolari, soprattutto cellulare e indirizzo mail del medico toscano per mettersi in contatto con lui. Ci sono poi una serie di riferimenti su come questi contatti dovevano avvenire, quindi chi mandava avanti il parente, l'amico o l'amica, e via via, insomma, da questo trae una sostanziale amarezza Calabrese su 7 di questa settimana. E noi con questa segnalazione abbiamo concluso. Io ringrazio Carmelo Lauricella questa mattina in regia, grazie anche a Margherita Aina, grazie a Luca Rinaldi e benvenuto da quest'oggi, da questa puntata, nello staff di Magazine 24. Vi ricordo, potete riascoltare questo programma, così come tutti i programmi di Radio 24, sul nostro sito www.radio24.it. A domani.